Zolt. Zolt. Fulminati in azienda. Marco, se posso, una opinione da consulente. Sì. Ti vedo sciupato. Guarda, super consulente, ti dico la verità, questa storia dei cinesi mi sta ammazzando, mi sta ammazzando. Avanti, dottore, avanti. La scusi se la disturbo. Sì, dimmi, Paco. Mi chiedevo se questo potesse essere un buon momento per parlare del mio contratto, perché se finì il mio stage, pensavo... Guarda, ti dico la verità, Paco, tutto mi sembra questo tranne un buon momento per parlare del tuo contratto, va bene? Se continui con questa storia, finisce che ti spedisco in Cina per il prossimo stage. Andersen, fuori adesso, dai. Allora, dicevamo, scusami, paragone, super... Cosa devo fare con questi cinesi qui? Cosa devo fare? Ho pensato a lungo, ho sottoposto la questione anche ai miei soci della Paragone & Partners e vi ho portato un centinaio di slide che espongono un paio di soluzioni per bypassare la questione cinese. Guarda, Paragone, non sono in vena di slide. Dimmi due parole secche, chiare e concrete su cosa dobbiamo fare. Dopo attente riflessioni, considerando la complessità del contesto, la globalizzazione... Paragone, ho detto due parole! Ci sono due possibilità. La prima è competere sul prezzo. La seconda? E la seconda, comprare i nostri competitor cinesi e far produrre tutto in Cina. Buongiorno a tutti colleghi, buongiorno. Buongiorno. Saltiamo buongiorno. I convenevoli, dai. Allora, questo meeting d'urgenza è stato convocato per affrontare un tema scottante. Cosa succede? Sì, è per piacere. Grazie, Silene, grazie. Allora, come tutti voi sapete, ormai la minaccia cinese incombe, si stanno diffondendo come un'epidemia, come un virus queste qui. Però noi abbiamo la soluzione. Lo sapevo che non c'era da preoccuparsi. Aspetta a cantare vittoria, pronta, aspetta. Allora, abbiamo pensato di mandare uno dei nostri uomini, una grande risorsa, in Cina, con il preciso mandato di fare un'indagine, capire come stanno le aziende locali e scoprire qual è il nostro maggiore competitor. Mi sembra un'idea meravigliosa. Ora dobbiamo solo fare una ricerca su tutta l'azienda per individuare il profilo più idoneo a questo importantissimo incarico. Guarda, vado subito a preparare una tabellina. Schedula, calma, raffredda i bollori, fallo finì prima di sta ricerca. Ecco, grazie Centri per averlo fatto tu, se no mi arrabbiavo. La persona comunque che si occuperà di questo delicato incarico è Paco, Mario Paco. Ma come Paco? Paco, ma certo. Che immagine ci dà? No, è Paco, è la persona giusta, è la risorsa giusta. Dobbiamo solo fargli un contratto di fare un altro stage all'estero in Cina, eh? Te ne occupi tu, schedula? Ma non capisco, la ricerca e tutto il resto. Non c'è nessuna ricerca, perché con Paco la Cina è vicina. Bene, Paco, l'azienda ha deciso di investire nuovamente su di lei proponendole un importantissimo incarico. Ah, bene, un incarico vero, vorrà dire allora che mi fai un contratto serio. Ecco, non proprio, Paco, abbiamo pensato ad un percorso formativo in Cina per farle imparare la lingua e studiare il nostro competitor. Questa è una grande, grandissima opportunità per lei, se ne rende conto? In Cina come Marco Polo, ah, bene, ma allora me lo fai questo contratto, sì o ma no? Ma certamente, un nuovo contratto di stage da fare in Cina, per l'appunto. Naturalmente è da considerarsi un investimento per la sua formazione, perciò le spese di vitto, viaggio, soggiorno saranno a suo carico. Ah, grazie. Una bella opportunità proprio, sì. Zolt è scritto e interpretato da Andrea Beretta, Nicola Giunta, Andrea Notarnicola e Patrizia Sorrenti, con la partecipazione di Chiara Romersa, Emanuele Margiotta e Pina Luciani. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3Z2O 1T.